Un'altra figura fondamentale è Sant'Agostino. Sant'Agostino, adesso facendola molto breve, era un pagano, quindi non è certamente un cristiano, il quale aveva una vita dissoluta, praticava, era molto attratto dalle donne e così via. Quando si convertì, cambiò completamente registro. E considerò che la sessualità fosse la porta d'ingresso del peccato nel mondo. E la visione agostiniana è una visione molto pessimistica sulla natura umana. E dice: gli esseri umani, in conseguenza del peccato originale, nascono già storti. E senza la grazia di Dio è ben difficile che si possano raddrizzare. E quello che ci interessa, soprattutto qui, è la posizione sessuofoba di Sant'Agostino, il quale, senti bene cosa dice. Adamo ed Eva, Genesi, peccato originale, è un peccato che ha uno sfondo sessuale, serpente, donna, queste cose. Questo peccato continua a essere all'inizio di ogni vita umana perché i genitori mettono al mondo un figlio in conseguenza di un atto di concupiscenza. L'ideale per Sant'Agostino quindi sarebbe non praticare mai la sessualità di per sé è un male. D'accordo che poi nasce un altro figlio di Dio, ma questo figlio di Dio comunque è segnato dall'inizio. Ora capisci? Questa è una posizione che potremmo dire in termini psicologici, sessuofoba, che è dovuta al suo carattere, il suo carattere impulsivo. Prima la vede in un modo, poi la vede in un altro, e dopodiché. Ecco. E qui è un tema che mi interessa molto. Sant'Agostino, come altri filosofi, tra l'altro Sant'Agostino è stato uno dei più influenti filosofi dell'Occidente. Pensa che ancora Serge Latouche, quando parla dell'economia, della storia dell'economia, parla della visione agostiniana come centrale per capire il pensiero anche economico. Insomma, figurati solo questo, pensa solo questo. Ora, per Sant'Agostino esisteva la città di Dio e la città terrena. E massimo disprezzo quindi per la città terrena che non merita. Quindi dice l'amore per la terra e l'amore per Dio sono due cose diverse. L'amore per il mondo vuol dire disprezzo di Dio e l'amore per Dio vuol dire disprezzo per il mondo. Ora, questa visione manichea, così separata, ha segnato tutta la nostra civiltà e il rapporto tra anima e corpo, tra sesso e spiritualità. E ci sono delle radici chiaramente dovute al carattere, a quello che potremmo chiamare il carattere di un filosofo come Agostino. Questo non riguarda solo Agostino, anche Kant aveva un determinato carattere, un tipo di carattere ossessivo, in conseguenza della sua struttura di carattere, poi ha creato una determinata filosofia. Allora, per noi che siamo interessati al processo di ideologizzazione, deideologizzazione, sto parlando in termini, fra poco parlerò del circuito autogenerativo di Boris Porena, da cui il nostro lavoro ha tratto origine, per noi che siamo interessati al processo di smontamento delle ideologie, puoi comprendere come diventare consapevoli che ogni forma di filosofia non nasce da delle esigenze, diciamo così, scientifiche, ma nasce nel crogiolo del carattere specifico del filosofo e che la teologia non fa eccezione. Ma dirò di più, non solo del carattere individuale del filosofo, ma del carattere sociale di quell'epoca lì, di quella comunità. Per cui il cristianesimo si è diffuso perché corrispondeva a un carattere sociale di quel periodo che lo consentiva. Gesù non è stato l'unico profeta di quel periodo, ma è stato quel profeta che ha parlato in un modo che era adeguato a essere assorbito dal carattere sociale di quell'epoca lì. È per questo che ha avuto quel successo che altri profeti non hanno avuto. Questo è molto importante e da un punto di vista della storiografia scientifica è un dato inoppugnabile. Ci sono stati altri profeti. E qui è molto interessante proseguire, ancora due cose devo dire. La predicazione di Gesù era fondata sul fatto che entro poco tempo il mondo sarebbe finito e sarebbe stato il regno di Dio, e quindi o la dannazione. Questa profezia è stata sconfessata dalla storia. Allora, gli apostoli hanno creato, la figura di Gesù come una figura di figlio di Dio, non come profeta uno tra i tanti altri, e quindi che il suo messaggio è un messaggio eterno, valido per sempre. E quindi la religione cristiana non è nata da Gesù, ma è nata da una costruzione degli apostoli, che erano a loro volta parte di comunità, che avevano un loro carattere sociale, dovuto al periodo storico, quindi storico-sociale, e quindi ha preso una certa svolta anziché un'altra. Ora, ecco perché oggi è ancora così difficile in Italia, nelle scuole, studiare la storiografia scientifica delle religioni, perché la storiografia scientifica toglie i veli dagli occhi e consente la deideologizzazione del fenomeno religioso. Dopodiché lascia liberi chi vuole di lasciarsi guidare dalla fede, perché Gesù comunque è stato un grande profeta, ecco. Ma lascia liberi il pensiero, mentre entrando dentro la visione confessionale, insieme a ciò che di buono si può ottenere, si impara anche a perdere il senso critico. E quindi, in un certo senso, si fa proprio un'operazione che è contraria a quella che voleva Gesù, si vende l'anima al diavolo. Cioè si vende l'anima alla gerarchia che spesso è fondata sul potere, dominio, anche inconscio, anche fatto in buona fede. E quindi è proprio esattamente l'opposto della liberazione dell'uomo dal dolore, che deriva da che cosa? Dalla nevrosi. E la nevrosi è fondamentalmente potere dominio interiorizzato.